Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carmirati. Sono a Roma e sono davanti a uno dei gioielli intatti del primo Rinascimento romano, cioè la villa oggi chiamata Farnesina, ma che venne fatta costruire vicino al Tevere, in via della Lungara, dal più potente banchiere romano del primo Cinquecento, cioè dal banchiere senese Agostino Chigi. Questo signore non era un nobile, perché poi la famiglia Chigi diventerà importante nel secolo successivo, quando uno di loro, Fabio Chigi, diventerà papa con il nome di Alessandro VII. Ma Agostino Chigi era semplicemente un prestatore di danaro, un grande imprenditore, e a un certo punto decise di investire queste straordinarie ricchezze nella costruzione di una villa fuori dalle mura di Roma, vicino al Tevere. Costruì questa villa chiedendo a Baldassarre Peruzzi, che era senese come lui, di disegnare l'immobile, una villa perfetta che ancora oggi ci lascia stupefatte per le meravigliose proporzioni, e poi volle riempire la villa di meravigliosi affreschi che ancora oggi noi possiamo andare a vedere, e facendo una gara tra i migliori artisti presenti in quegli anni a Roma. Doveva emulare il Papa Giulio II, il suo grande amico, e quindi chiamò innanzitutto Baldassarre Peruzzi, che oltre a essere l'architetto era anche un abile pittore, che gli realizzò una delle gallerie, addirittura affrescò, pensate, sulla volta la situazione del cielo e delle stelle nel momento della nascita del committente di Agostino Chigi. E poi nella stessa galleria chiamò Sebastiano Del Piombo, che si era portato durante un viaggio a Venezia, l'aveva conosciuto e se l'era portato a Roma, e insieme a Sebastiano Del Piombo volle di fianco il giovane Raffaello Sanzio. Poi nella galleria, che qualche anno dopo, nella galleria detta di Amore Psiche, lo stesso Raffaello con la sua bottega raccontò la fiaba di Amore Psiche, narrata da Puleio, e poi al piano di sopra, in occasione delle sue nozze con la sua terza moglie, volle preparare una sala di banchetti, che è una sala straordinaria, perché Peruzzi immagina che sia tutta aperta, con delle finte prospettive, e accanto la camera da letto, affrescata da un altro artista, Giovanni Bazzi, detto il Sodoma, con le storie di Alessandro Magno e di Rossana, la sua giovane moglie, il momento delle nozze tra il grande imperatore e la giovane moglie, un soggetto perfetto per una camera da letto per due novelli sposi.